Focus Economia con Deborah Rosciani. Sono le 17.08, buonasera a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a Focus Economia. Ve lo dico subito, Sebastiano Barisoni non ci sarà per due giorni, torna mercoledì, quindi sgombriamo immediatamente il campo a tutte le polemiche, a tutti gli equivoci, insomma sappiate che per un paio di puntate dovrete sopportare una conduzione diversa. Detto questo, a parte tutti gli scherzi, quali sono i temi dei quali parleremo questa sera? Parte molto male la settimana di borsa, gli indici in Europa sono tutti in calo, è in calo anche Wall Street, stanno peraltro arrivando dagli Stati Uniti molte trimestrali e non sono proprio tutte negative, ma il tema è che chiaramente i venti di crisi che spirano tra Russia e Ucraina e anche in Medio Oriente continuano a destare molta preoccupazione fra gli investitori, che preferiscono naturalmente alleggerire le proprie posizioni in attesa di schiarite sul fronte diplomatico internazionale. Per Milano questa prima seduta di borsa della settimana equivale ad un calo di un punto e mezzo, meno 0,7%. Parigi, Francoforte meno 1,10%, Londra è in ribasso di circa mezzo punto. Per ciò che riguarda Wall Street abbiamo un calo dello 0,6% sul Dow Jones, il Nasdaq per dello 0,47%, lo Standard & Poor's dello 0,51%. C'è anche da dire, e probabilmente Sebastiano Barisoni l'ha rimarcato più volte anche nelle ultime sedute, che stando che gli indici viaggiavano da molte sedute sui loro record storici, sui loro massimi, è chiaro che questa situazione internazionale viene presa anche un po' a pretesto per vendere e prendere profitto dai guadagni recenti. E comunque oggi ancora una volta su Piazza Affari i titoli peggiori appartengono quasi tutti al comparto bancario, lo spread è in leggero rialzo rispetto a settimana scorsa, comunque siamo intorno a 163 punti base. I peggiori titoli, poi sicuramente nel corso della puntata, come sapete, abbiamo un focus sulla seduta di borsa di Piazza Affari. I peggiori titoli al momento con cali che oltrepassano i 3 punti, abbiamo World Duty Free, la Banca Popolare di Milano, UbiBank e la Popolare dell'Emilia Romagna, che peraltro ha concluso con successo l'aumento di capitale e oggi arrivano le prime appunto prese di profitto. Dall'altra parte della classifica due soli titoli positivi in questo momento: Salvatore Ferragamo più 0,8, Snam Rete Gas più 0,23%. La borsa naturalmente a partire dalle 17.35 circa. Ma quali sono gli altri temi dei quali parleremo oggi? Allora, abbiamo il dato, due dati che oggi ancora una volta confermano il quadro fortemente preoccupante per quello che riguarda l'economia italiana: gli ordinativi industriali di maggio e il fatturato industriale di maggio, dati tutti negativi. Peraltro sta avendo una forte difficoltà anche tutto ciò che attiene al fronte internazionale. Le commesse sono calate, secondo quanto dice l'Istat, su base annua di circa 2,5 punti. Abbiamo una flessione che è la prima da 8 mesi. Cercheremo appunto con un economista di interpretare un po' meglio questi dati e soprattutto di capire che cosa a questo punto succederà nei prossimi mesi, ma c'è chiaramente una visione abbastanza convinta sulla situazione di stagnazione con la quale dovremo abituarci a convivere ancora per molti mesi per quello che riguarda l'Italia. Altri temi dei quali parleremo oggi: ancora problemi molto importanti per la famiglia Riva e quindi Ilva. Oggi il figlio dell'ex patron dell'Ilva, Emilio Riva, appunto Fabio, è stato condannato dalla terza sezione del Tribunale di Milano a 6 anni e mezzo di carcere per la vicenda di una presunta truffa ai danni dello Stato da circa 100 milioni di euro. E insomma, la famiglia Riva non si fa davvero mancare nulla. Per quello che riguarda invece la società, il complesso siderurgico tarantino, oggi il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha detto che ci sono serissime manifestazioni di interesse, 4 o 5, per naturalmente una rilevazione della società. Cercheremo di capirne più tardi con il nostro corrispondente dalla Puglia, Domenico appunto Palmiotti per capire che rilevanza hanno le notizie di oggi. Un'altra cosa molto interessante, peraltro un tema molto popolare, quello delle multe. Oggi faremo un po' anche il bilancio dello stato di salute dei comuni italiani, anche qua molto preoccupante perché veramente i sindaci non sanno più dove sbattere la testa, e a quanto pare nel primo semestre di quest'anno c'è stato un fortissimo calo negli introiti derivanti dalle multe. Automobilisti nel labirinto delle multe, titolava questa mattina il Sole 24 Ore. Gli italiani sono diventati più virtuosi, non sappiamo se in realtà il motivo di questa forte riduzione degli incassi da multe per i comuni sia derivato proprio da questo miglioramento del comportamento su strade e autostrade da parte dei conducenti, degli automobilisti italiani. Fatto sta che in realtà è più probabile che si paghino molto di meno, e questo chiaramente mette un po' anche in difficoltà i sindaci, come dicevo, che fanno abbastanza affidamento sulle entrate da multe e da sanzioni stradali. Ne parleremo più tardi con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Peraltro oggi c'è anche una interessante indagine su Repubblica che porta la firma di Federico Fubini e che racconta del numero di comuni che sarebbero addirittura a rischio bancarotta, qualcosa come 180 enti locali, e quindi cercheremo di capirne qualcosa di più. Un'altra notizia sulla quale faremo un punto della situazione: oggi l'IVAS, che è la autorità che ha sostituito l'ISVAP, cioè l'autorità di controllo sul mercato assicurativo, ha acceso un faro sulle cosiddette polizze occulte abbinate a tanti servizi per i consumatori, a pacchetti vacanza, conti correnti bancari, a contratti telefonici di fornitura di gas e acqua, di cui i consumatori appunto sono spesso ignari di aver siglato, di aver firmato appunto per avere queste polizze, o comunque o non hanno costi chiari. L'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ha trasmesso questa indagine quindi all'Antitrust, all'autorità per l'energia e al garante della privacy, per valutare l'opportunità di attivare delle azioni congiunte a tutela dei consumatori. Pensate che sarebbero almeno 15 milioni i consumatori che avrebbero, loro malgrado, nella loro totale inconsapevolezza, sottoscritto queste polizze appunto abbinate ad altri servizi. E quindi insomma abbiamo diverse cose oggi da commentare. 349-238-6666 è il numero se volete per commentare insieme a noi i fatti del giorno. Adesso rapidamente le notizie in breve. Cominciamo, mi viene da ridere un messaggio di un ascoltatore che dice: sei stata a casa una settimana e mo te tocca sgobba. È vero, naturalmente siamo in periodo di vacanze per tutti, per cui chi rimane in redazione qui a Radio 24 chiaramente si deve incaricare anche un po', giustamente dico io, dei turni degli altri. Detto questo, andiamo ai temi di oggi, le notizie in breve, cominciando come sempre con le quotazioni delle commodities. Oro oggi da stamattina sui mercati asiatici stabile a $1,300 l'oncia, ma la scorsa settimana il metallo giallo aveva perso circa il 2%, nonostante la corsa a questo bene rifugio determinata anche dall'inasprirsi appunto dei due focolai di crisi che abbiamo più volte ricordato. Il petrolio invece oggi è aperto in rialzo a New York a $103,63 al barile. Netta frenata in primavera per edilizia ed industria, bene i servizi. Dove accade tutto questo? In Germania, dove per il secondo trimestre di quest'anno la Bundesbank ha previsto una fase di stagnazione per l'economia tedesca, con il PIL che dovrebbe restare sullo stesso livello dei tre mesi precedenti. Lo ha scritto appunto la Banca Centrale Tedesca nel suo bollettino mensile pubblicato questa mattina. Per la Bundesbank, in frenata ad aprile e maggio, industria e settore edile. Raccontavamo prima, anticipavamo del fatto che è ripresa negli Stati Uniti la stagione della diffusione dei dati delle società quotate, quindi siamo di nuovo in pieno periodo di trimestrali, ce ne sono molto interessanti. Tra poche ore arriva a Microsoft, e peraltro dopo l'annuncio appunto dei maxi tagli occupazionali c'è grande attesa per verificare quali saranno appunto i risultati del trimestre. Ma oggi c'è una trimestrale che ha fatto abbastanza parlare di sé, che è quella del del gruppo Allergan, produttore del Botox. Questa società ha fatto sapere che ridurrà la propria forza lavoro del 13% in un piano di ristrutturazione che punta a risparmi per 475 milioni di dollari, a contrastare peraltro anche l'offerta di acquisto di Valeant Pharmaceutical. I tagli di Allergan riguarderanno 1.500 posti di lavoro, insomma un piano di ristrutturazione di una società che mediamente con il prodotto che appunto produce ristruttura facce e non solo, ma questa è un po' la notizia curiosa di oggi. Spread fra BTP e Bund stamattina in apertura stabile a 163,6 punti base sulle posizioni registrate venerdì. In chiusura oggi Matteo Renzi: un paese ambizioso costruisce strategie di medio periodo. Fra 10 anni energia, agri-food, export sarà nel cuore dell'Italia prima volta. Così Matteo Renzi ha spiegato da Luanda, ultima tappa del suo tour in Africa, gli obiettivi della missione in Mozambico, Congo e Angola. Il decreto sulla competitività delle imprese sarà votato con la fiducia in aula al Senato, lo ha detto il relatore del provvedimento, il presidente della Commissione Ambiente Giuseppe Marinello, al termine della riunione fra maggioranza e governo per pianificare i lavori e il voto sugli emendamenti. Avete sentito anche nel giornale radio oggi il ministro dell'economia Padoan e i rappresentanti di regioni, province, comuni, imprese, ordini professionali, banche, cassa, depositi e prestiti hanno sottoscritto il protocollo che specifica gli impegni che ciascuna parte assume per garantire il tempestivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle aziende. Sapete, una vicenda che va avanti da anni, lo Stato non ha ancora sbloccato tutti i debiti che ha nei confronti appunto delle aziende, molte delle quali a causa di questa situazione sono fallite in questi ultimi anni, e quindi oggi un protocollo che mette nero su bianco finalmente lo sblocco, speriamo definitivo, di questa vicenda. Un'operazione per la cui riuscita è necessario il concorso responsabile di tutti i soggetti coinvolti. Il governo, sin dall'inizio del suo mandato, ha fatto sapere questa nota del Ministero dell'Economia, ha posto al centro dell'agenda politica l'obiettivo di assicurare il pagamento di questi debiti a partire dal completo smaltimento di quelli pregressi, perché chiaramente poi nel frattempo se ne sono accumulati altri, naturalmente operazione che era già stata avviata dal governo precedente. C'è da segnalare anche una nota poi arrivata poco fa sempre dal Ministero dell'economia, secondo la quale, a seguito anche di questo protocollo firmato oggi, c'è la promozione di nuove misure di allentamento del patto di stabilità interno tra gli impegni presi appunto dal Ministero con la firma di questo protocollo. Tralascio velocemente i dati sugli ordini di maggio, il fatturato di maggio da parte delle aziende, perché fra un po' questi dati li commenteremo con un ospite. Intanto vi preannuncio che cosa ha detto oggi il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi aprendo i lavori del Consiglio informale competitività dell'Unione Europea a Milano, vertice che è stato preceduto ieri da un altro vertice quadrilaterale fra i ministri d'Italia, Francia, Germania e Spagna. La politica industriale necessita di essere integrata nel pacchetto clima e energia per favorire un'economia più efficiente che tenga anche conto dell'impatto che l'aumento dei prezzi dell'energia ha sulle nostre industrie, ha detto il ministro Guidi, affermando anche che bisogna sostenere la sfida ambientale. Il calo della produzione industriale è la nostra preoccupazione e anche l'allarme che abbiamo lanciato nei giorni scorsi. Abbiamo un livello di processi annunciati di ridimensionamento dell'attività produttiva in settori strategici che ci fanno temere per la tenuta del nostro sistema industriale. La preoccupazione oggi è stata espressa dal leader della CGIL Susanna Camusso, che ha anche detto: gli andamenti hanno come sempre degli elementi congiunturali, ma sono in realtà un segno di un progressivo ridimensionamento del nostro sistema industriale. All'Italia è necessario fare chiarezza. L'accordo sindacale propedeutico all'intesa con Etihad era sul piano industriale. Da questo punto di vista la UIL si è assunta tutte le responsabilità per questo obiettivo, lo ha detto oggi il leader di questa sigla sindacale Luigi Angeletti in una nota, precisando che la questione contrattuale invece era un problema da risolvere fra Alitalia e i sindacati e non riguardava Etihad. Con un paio di notizie prima del nostro primo approfondimento, nuovi problemi per Uber. Ve lo ricorderete, quando è arrivata questa piattaforma a Milano i tassisti si sono tutti fermati perché non ne vogliono assolutamente sentir parlare di questa forma appunto di servizio sicuramente concorrenziale per loro. Ebbene, adesso i nuovi problemi per questa piattaforma ci sono in Corea del Sud, perché la città di Seoul sta proprio moltiplicando gli sforzi per bandire questo servizio, cosa che metterebbe il freno all'espansione in Asia della startup che ha creato l'omonima applicazione per prenotare taxi e vetture con autista usando lo smartphone. Uber sta danneggiando le brave persone dell'industria dei taxi, ha detto Kim Kyung-ho, numero uno del dipartimento ai trasporti della città. E come riporta il Financial Times, l'amministrazione cittadina fa riferimento ad una serie di presunte violazioni che un po' sono state contestate anche qua in Italia, e ha preannunciato la creazione di un'applicazione simile, ma dedicata ai tassisti con licenza. Ricordiamo che Uber è stata lanciata a San Francisco 4 anni fa ed è oggi una società valutata qualcosa come 18 miliardi di dollari. È presente in 149 città di 41 paesi. Direi che possiamo sfumare la nostra prima base, passare alla seconda, caro Filippo, e andare al primo approfondimento di oggi. Questi nuovi dati che confermano ancora una volta lo stato di grande difficoltà che vive l'economia del nostro paese. Allora, intanto saluto il dottor Paolo Guida, responsabile ricerca di mercato per investitori privati, l'ufficio studi di Banca Intesa San Paolo. Dottor Guida, buonasera e grazie. Buonasera a voi. Allora, i dati di oggi, prima li ho detti velocemente, adesso voglio ricordarli ancora. Gli ordinativi dell'industria italiana a maggio sono scesi sul mese precedente del 2,1%, dopo due mesi in cui invece c'era stato il segno più. Le commesse sono scese anche su base annua, il ribasso è stato del 2,5% e si tratta in questo caso della prima flessione dopo 8 mesi. Se in termini mensili a pesare è l'estero, a livello tendenziale è ancora il mercato interno a fare peggio. Abbiamo poi il dato sul fatturato dell'industria, che sempre a maggio scende dell'1% rispetto ad aprile. Anche in questo caso viene segnato il secondo ribasso congiunturale consecutivo. In questo caso abbiamo però un dato positivo su base annua, anche se siamo leggermente al di sopra dello zero, l'incremento è dello 0,1%. Anche in questo caso, anche su questa voce, a registrare i dati peggiori praticamente sono i mercati esteri. Dottor Guida, ci aiuta a decodificare un po' le statistiche che sono state diffuse oggi? Dove fa peggio l'industria italiana? In quali settori, al di là diciamo dei numeri e delle secche percentuali che abbiamo dato? Ma senz'altro è un numero particolarmente complicato da interpretare, questo per il fatto che c'è un effetto statistico negativo per il mese di maggio 2014, cioè la presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto allo scorso anno, e questo è un primo elemento. E poi più in generale il fatto che senz'altro viviamo una fase di attenuazione dell'attività produttiva, come ha confermato il dato sulla produzione industriale, ma dall'altra parte ad esempio i dati sull'esportazione proprio per il mese di maggio non erano per niente male, soprattutto nella componente riguardante gli scambi con i paesi dell'Unione Europea, in realtà sono stati in crescita abbastanza significativa, al di sopra del 3% su base annua. Riusciamo a spacchettare, dottor Guida, questi dati magari per settori, ed effettivamente anche se c'è stata questa difficoltà per le imprese che riescono ancora ad esportare, diciamo, questa è una dinamica peraltro molto interessante perché è quella che riesce a garantire anche alla nostra economia di galleggiare quantomeno, quali sono i mercati che hanno messo più in difficoltà le imprese italiane? Ma dal punto di vista settoriale ci sono dei numeri un po' anomali, ad esempio quello riguardante la meccanica, in particolare il settore delle macro utensili ha visto una caduta particolarmente significativa, meno 13,6% su base annuale con riferimento agli ordinativi. Anche in questo caso però, se si vanno a vedere delle altre indagini, come per esempio quelle di settore riguardanti le macchine utensili, si vede che i commenti parlano di un andamento nel secondo trimestre che è abbastanza positivo e comunque in crescita, il che lascia intuire che si tratta davvero di un mese un po' particolare in cui gli effetti base, gli effetti statistici hanno probabilmente giocato un ruolo fondamentale. Da un punto di vista invece dei mercati di sbocco si conferma soprattutto l'Unione Europea un motore importante della ripresa dell'attività economica e dell'export italiano, anche se il contesto internazionale che si sta creando in questo frangente in cui le crisi geopolitiche si moltiplicano, ovviamente lo scenario si fa senz'altro più incerto. Certo, quanto sono importanti per voi che studiate queste dinamiche, dottor Guida, i dati su ordinativi e fatturata appunto industriale nelle statistiche che mettete nei vostri rapporti? Sono degli indicatori particolarmente rilevanti, ce ne sono altri a cui date più peso? La fiducia, per esempio? Sono importanti soprattutto gli ordinativi in termini prospettici, perché ordinativi oggi vuol dire probabilmente della produzione domani, ma vanno comunque accompagnati da altri indicatori altrettanto importanti, come ad esempio quelli di fiducia, che non a caso ad esempio i PMI, cioè gli indicatori riguardanti la fiducia dei direttori degli acquisti, indicano invece un andamento che continua ad essere abbastanza buono anche per il mese di maggio e per il mese di giugno, a conferma del fatto che questi dati vadano letti con una certa cautela e probabilmente dovremo aspettare almeno i numeri di giugno sulla produzione industriale e senz'altro quelli del PIL del secondo trimestre, entrambi peraltro saranno in uscita il prossimo 6 agosto, per capire se effettivamente l'economia italiana sarà cresciuta nel secondo trimestre, seppur senz'altro di poco. Lei ci crede? Ma devo dire che siamo al limite, nel senso che anche se il percorso di ripresa riteniamo non sia sconfessato da questi dati, il secondo trimestre è probabile che sia un trimestre di sostanziale stagnazione per l'economia italiana, anche se ci sono alcune indicazioni incoraggianti, soprattutto sul fronte della domanda interna, come confermano i dati sulle vendite al dettaglio o la fiducia dei consumatori, che ci fanno ben sperare per la seconda metà dell'anno. Dottor Guida, un ascoltatore ci scrive fra i tanti commenti che ci stanno arrivando: perché non capiscono che se non si danno più soldi ai lavoratori non riparte nulla. Questa è una bella sfida, perché in realtà oggi abbiamo anche un mercato del lavoro che è complessivamente in difficoltà. Non solo sono in difficoltà coloro che lavorano e che magari percepiscono un reddito non adeguato alle esigenze, allo stile di vita appunto che bisogna sostenere in questo momento. Lei condivide comunque questa opzione? Il problema della caduta così dirompente della domanda interna ha ovviamente anche questa causa, ma solo, come la pensa, dottor Guida? Assolutamente sì, la crisi degli ultimi anni, gli ultimi trimestri, è senz'altro stata una crisi di domanda interna, perché la domanda estera ha sostanzialmente tenuto le imprese italiane, si sono ben comportate all'estero, soprattutto quelle che avevano la fortuna di avere un mercato estero, per cui seppur qualche timido segnale di risveglio della domanda interna si veda con le vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori, probabilmente anche grazie a questo piccolo contributo della riduzione della pressione fiscale, di più senz'altro deve essere fatto in prospettiva, perché dalla domanda interna che potrà venire un aumento sostanziale della crescita economica nel nostro paese. E chiedo ancora un minutino di pazienza, dottor Guida, perché vorrei che lei commentasse con noi invece questo dato che è arrivato oggi dalla Germania, perché la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha previsto anche una fase di stagnazione per appunto la Germania, con il prodotto interno lordo che dovrebbe restare per il secondo trimestre di quest'anno sullo stesso livello dei tre mesi precedenti, in frenata in questa area, appunto in questa che continuiamo comunque tutto sommato a considerare la locomotiva europea. In frenata ci sono il settore edile particolarmente, ma un po' tutto il comparto industriale. Sorprende questa analisi della Bundesbank, dottor Guida? Anche qua tutto come nelle attese. Non sorprende soprattutto sulla base dei numeri di giugno della produzione industriale in Europa, che hanno confermato non solo per l'Italia una caduta che seppur temporanea è probabilmente destinata ad influenzare l'intero secondo trimestre nell'area euro. Ciò nonostante riteniamo che sia solo una pausa nel percorso di moderata ripresa che ci sarà nel 2014 e che nel caso dell'Italia è purtroppo particolarmente grave per il fatto che già avevamo una ripresa davvero anemica in questo contesto. Il secondo trimestre potrà ulteriormente peggiorare le condizioni di crescita per l'intero 2012, per il fatto che dallo 0,4% che noi stimiamo potrebbero esserci delle revisioni al ribasso qualora il PIL del secondo trimestre dovesse deludere le attese. C'è un'altra notizia piuttosto interessante che oggi è arrivata sempre dalla Germania, e c'è questa inchiesta che è stata commissionata in aprile dall'Associazione delle Banche Cooperative Popolari Tedesche ad un istituto appunto di indagini, di inchieste. Sono stati interpellati circa 2000 tedeschi e praticamente che cosa è emerso da questa indagine? Che malgrado i tassi di interesse ormai vicini allo zero nell'eurozona, e particolarmente per il Bund tedesco, insomma, quando raccontiamo dello spread sappiamo benissimo a che livello sono i tassi di interesse dei titoli di Stato tedeschi, ecco, nonostante questa situazione i tedeschi continuano a mettere da parte tutta la liquidità di cui non hanno bisogno per il consumo giornaliero. Dalle risposte appunto fornite dai 2000 tedeschi che sono stati intervistati emerge che l'ammontare massimo mensile a disposizione per il risparmio è di 203 euro a testa, di cui 194, quindi il 96%, effettivamente risparmiato. Secondo gli interpellati, l'ammontare ideale per il risparmio sarebbe tuttavia di 265 euro. La stessa inchiesta condotta 2 anni fa aveva registrato un ammontare massimo di risparmio possibile di 185 euro. Dottor Guida, risparmio tedesco, risparmio italiano, tutto sommato però, ecco, quando noi guardiamo lo stock di risparmio privato del nostro paese, per fortuna almeno da quel punto di vista, con tutta la difficoltà che le famiglie hanno, continuano a fare le formichine quanto più possono, e almeno da questo punto di vista, insomma, la Germania non deve poi insegnarci molto. Che ne pensa? Assolutamente sì, anche se l'ultima parte della sua affermazione probabilmente sta un elemento interessante, cioè per quanto possano, perché ovviamente la riduzione del reddito disponibile in Italia ha diminuito anche le capacità di risparmio nel nostro paese. C'è di buono che lo stock di ricchezza, il patrimonio, che indipendentemente dalla sua distribuzione in Italia è ancora abbastanza elevato e giustifica tra l'altro un trattamento diverso nel giudizio sulla situazione delle finanze pubbliche italiane rispetto ad altri dei paesi che hanno un grado di indebitamento privato che è molto più alto rispetto al nostro. Ricordiamo tra l'altro che a proposito di risparmio privato, il 1 luglio è scattato l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, di cui gli italiani si accorgeranno fra qualche mese quando vedranno appunto gli estratti conto del loro di quanto riescono ad accantonare nelle varie forme, appunto nelle varie soluzioni di investimento. Grazie al dottor Guida all'ufficio studi Banca Intesa San Paolo, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie molte, noi adesso ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pausa. Vedo ancora molti commenti da parte vostra sul tema affrontato poco fa. È chiaro che soprattutto che in questo momento non lavora, vede nero totalmente, non crede in nessuna delle ipotesi che si fanno su una moderatissima ripresa per i prossimi mesi. In realtà appunto dottor Guida lo diceva, la parola d'ordine continuerà ad essere a lungo stagnazione. Teniamo duro. Per tutti gli appassionati delle colonne sonore dei nostri approfondimenti, qua oggi abbiamo fatto sbizzarrire la nostra regia, d'altronde siamo in piena estate, anche se a Milano non la vediamo, quindi cerchiamo un po' di alleggerire il clima almeno da questo punto di vista. Abbiamo fatto questo focus con il dottor Paolo Guida dell'ufficio studi del gruppo Intesa San Paolo sull'economia italiana. Che altro c'è da dire che non sia stato detto? Che siamo in grande difficoltà. Abbiamo fatto anche per un paio di voci un parallelo con la Germania, e peraltro non abbiamo fatto in tempo a commentare un'altra indagine che è stata diffusa oggi, che riguarda ancora la Germania, indagine del Fondo Monetario Internazionale, che ha alzato le stime di crescita per appunto il paese tedesco, avvertendo però che un aumento delle tensioni fra l'Occidente e la Russia potrebbe pesare sull'economia del paese guidato da Angela Merkel, e vorrei vedere poi se non peserà anche questa situazione su tutte le altre economie del globo. Per quest'anno a Berlino è atteso un prodotto interno lordo in aumento dell'1,9%, se noi solo potessimo vedere la metà di questa crescita sarebbe già un miracolo in Italia, e non più dell'1,7% come calcolato in precedenza dal fondo. E poi insomma via via anche per gli anni successivi le crescite si attesteranno attorno a queste percentuali. Peraltro poco fa abbiamo anche appreso, oggi proprio la Germania ci appassiona, che è venuto a mancare alla tenera età di 94 anni Karl Albrecht, cofondatore dell'impero del discount, il gruppo Aldi, che è proprio un'abbreviazione fra il cognome e la parola discount. Era un imprenditore che praticamente era il più ricco del paese, era un leggendario in Germania quasi quanto, dicono le agenzie, la sua antipatia verso i riflettori, ma a quanto pare questa attitudine è un po' comune anche a tutti gli operatori del settore, anche in Italia, dove ne abbiamo appunto di personaggi di questo tipo che non parlano, anche quando soprattutto sono a capo di dinastie familiari molto molto ricche e molto solidi appunto. Pensate che questo gruppo, di cui è venuto a mancare appunto il fondatore, non ha mai diffuso i suoi bilanci e conta 10.000 punti vendita fra Germania, Austria, Francia e Stati Uniti per un fatturato annuo di 40 miliardi di euro. La cosa incredibile appunto è che non abbia mai diffuso i suoi bilanci. Adesso lasciamo la Germania, andiamo in Italia a raccontarvi la giornata di borsa. Ero qua in attesa del jingle, della campanellina di borsa, e me la farò cantare da Paolo Paronetto di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti, non te la senti di cimentarti, strano. Allora, brutta partenza di settimana per i listini internazionali, per le borse internazionali che stanno pagando il prezzo, come scrivi tu oggi sulle agenzie appunto, delle tensioni internazionali. È da ricondurre esclusivamente a questo tema il calo di oggi, di cui adesso faremo una panoramica, Paolo, c'è dell'altro? Beh, direi proprio di sì, non ci sono temi particolari strettamente economici, mancano anche dati macroeconomici dagli Stati Uniti, quindi non ci sono neanche indicazioni su quel fronte. Il calo è decisamente generalizzato, anche se Milano è tra le borse peggiori, e quindi diciamo che i temi internazionali e le tensioni geopolitiche oggi hanno fatto da padrona. E tra l'altro dovrebbe parlare anche più tardi, non so se lo farà a minuti o è questione di ore, il presidente, ha parlato già Barack Obama. Ha parlato proprio una mezz'oretta fa, sì. Guarda, leggo proprio le agenzie diffuse da Radio Cori: il nostro focus immediato è recuperare i corpi delle vittime ancora disperse, indagare, essere certi che la verità venga fuori, e naturalmente si stava riferendo proprio alla tragedia in cui 298 persone giovedì scorso hanno perso la vita mentre viaggiavano a bordo di questo aereo della Malaysia Airlines abbattuto da un missile che secondo Washington è partito da un'area controllata sull'Ucraina appunto dai separatisti pro-russi. Torniamo a Piazza Affari. Allora, cominciamo un po' con i titoli che si sono comportati bene. Ne vedo proprio due, Paolo, pochi. Sì, bene, veramente pochi. A resistere in territorio positivo sono state soltanto Snam, che è un titolo tipicamente difensivo e che è salita dello 0,18%, ha fatto un pochino meglio Ferragamo, che ha chiuso con un più 0,82%, c'è poi ST Microelectronics che è esattamente invariata rispetto a venerdì, tutti gli altri titoli del paniere principale di Piazza Affari hanno chiuso in rosso. Cominciamo allora proprio con i peggiori. Da stamattina si sono passate continuamente il testimone un paio di società, World Duty Free e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, appartenenti a settori profondamente diversi. Cominciamo però proprio con il peggiore in assoluto, World Duty Free, meno 3,39%. Sì, per World Duty Free gli analisti segnalano che il titolo era risalito sui massimi toccati proprio all'inizio del mese di luglio, e quindi una volta salito fino a questi massimi non è riuscito ad andare oltre, quindi sono scattati alcuni realizzi. Inoltre diciamo che il settore oggi è colpito dalle vendite in tutta Europa, ad esempio a Francoforte TUI Travels ha perso il 3,72%, e quindi anche questo ovviamente ha contribuito al calo del titolo. Per quanto riguarda la Popolare dell'Emilia Romagna, invece naturalmente sconta la giornata è complessivamente negativa per tutti i titoli bancari, come spesso avviene proprio quando ci si tratta di temi proprio ciclici a livello generale. E inoltre venerdì si è chiuso con successo l'aumento di capitale da 750 milioni della banca, e quindi secondo molti osservatori è anche una correzione tecnica proprio in seguito alla chiusura dell'operazione. Tra l'altro, aumento di capitale, sono state settimane le ultime molto intense, perché molte banche italiane appunto si sono ricapitalizzate, operazioni concluse con successo che hanno in certi casi anche ridisegnato la nuova compagine azionaria. Giorno dopo giorno stanno uscendo anche, Paolo, adesso chiaramente non ti chiedo di ricordarli tutti, nuovi soci di Banca Monte dei Paschi, per esempio ogni giorno c'è proprio una comunicazione appunto sul nuovo socio che, avendo partecipato all'operazione, si è messo un po' in luce, no? Nella compagine. Sì, certo. Poi le banche italiane, come ricordavi tu, quasi tutte, al di là delle due principali big e di UBI Banca, hanno rafforzato il patrimonio proprio negli ultimi mesi, tutte decisamente con successo, e ovviamente al di là del rafforzamento patrimoniale che le mette in buona posizione per gli esami europei, questo apre la strada poi a futuri possibili round di aggregazioni e ovviamente a rimescolamenti nelle compagini azionarie. Quindi adesso il mercato si concentrerà proprio su questi ultimi due. Infatti molti prevedono proprio da questo punto di vista un autunno sicuramente caldo. Popolare di Milano, fra gli altri ribassi più consistenti, -3,31%, UBI Banca -3,22%, per la Emilia Romagna -2,89%, Case New Holland Industrial -2,55%, magari da qui partiamo per fare un punto, Paolo, sulla galassia Fiat. Sì, Case New Holland è stata debole, come è avvenuto abbastanza spesso nelle ultime sedute. Oggi ha perso terreno anche Fiat, -1,73%, quindi ha fatto poco peggio della media del listino. Ricordiamo comunque che in questo caso si tratta soprattutto di realizzi, perché il titolo era andato molto bene nell'ultima settimana, aveva fatto +5,6%, grazie da una parte ai dati sulle immatricolazioni in Europa, che erano andate a giugno meglio del mercato, e poi dai rumors smentiti, che comunque hanno sostenuto il titolo, sui possibili colloqui per una aggregazione a livello europeo, naturalmente con Volkswagen. Altri cali ancora piuttosto marcati: Finmeccanica -2,44%, Exor Holding di casa Fiat -2,26%, Piazza Cordusi, Unicredit -2,22%, il Banco Popolare -2,21%, -2,14% per Saipem. Nel settore del lusso, della moda, diciamo così, abbigliamento, Moncler non ha fatto compagnia. Salvatore Ferragamo è il titolo della società dei piumini, ha chiuso con un ribasso dell'1,21%, sempre nelle big bancarie Intesa -1,87%, Autogrill -1,86%, insomma qua cali abbastanza forti su quasi tutti i titoli quotati sul principale paniere di Piazza Affari. Allora, per consolarci un po', Paolo, andiamo su una società del listino minore, Maire Tecnimont, qua ha fatto parlare di sé oggi, per quale motivo? Il titolo è andato bene, ha chiuso un rialzo dell'1,37%, era arrivata a guadagnare quasi il 4%, e qui c'è una notizia positiva proprio sul business della società: ha annunciato un nuovo progetto nell'Indiana, negli Stati Uniti, sui fertilizzanti. È un progetto di un valore stimato in $1,6 miliardi, ovviamente immediatamente gli analisti hanno commentato positivamente la notizia, che dà molta maggiore visibilità al flusso di ordini, al portafoglio ordini della società, e quindi i titoli si sono immediatamente impennati e hanno guidato per certi tratti della giornata i rialzi sull'intero listino milanese, chiudendo appunto comunque positivamente. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buona serata, Paolo, grazie. Buonasera. Intanto stavo dando un'occhiata a Wall Street, dove in questo momento ci si comporta più o meno come ci si è comportati oggi a Piazza Affari: pochissimi titoli positivi sul appunto paniere americano. Intel è il miglior titolo in questo momento, sta guadagnando lo 0,9%, segue Chevron +0,12%, Walt Disney +0,10%, e qua abbiamo terminato i titoli con il segno più. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, qualcuno che naturalmente ancora contesta la questione che ribadiamo spesso: le borse sono sui massimi, le banche italiane dal 2008 sono a -80%, io non credo che siano ancora ad una prestazione così ridotta. Detto questo, la borsa tedesca è sui suoi massimi storici, Wall Street è ai suoi record storici di sempre, Milano quest'anno aveva recuperato un po' dall'inizio dell'anno, credo che in questi giorni abbia bruciato gran parte del terreno che aveva recuperato. Sapete bene bene che proprio a causa delle banche, come giustamente questo ascoltatore segnala, Milano ha sempre avuto le prestazioni più difficoltose in tutta Europa, soprattutto quando chiaramente la crisi del debito sovrano degli ultimi 3 o 4 anni ha esasperato le performance finanziarie delle banche, ma non solo. Milano, essendo composta largamente da titoli del settore bancario, chiaramente risente molto di più delle tendenze o negative o positive chiaramente di tutti gli altri indici. Detto questo, direi che possiamo lasciare la borsa e andiamo all'altro tema che vi avevamo preannunciato. Avete sentito nelle nostre anticipazioni, Fabio Riva, l'ex vicepresidente del gruppo Riva e peraltro latitante a Londra, è stato condannato oggi a 6 anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere per truffa ai danni dello Stato al termine del processo di primo grado su una presunta truffa attuata dal gruppo Riva attraverso l'Ilva di Taranto. Vogliamo capirne qualcosa di più con il nostro Domenico Palmiotti, il Sole 24 Ore Taranto. Domenico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Piovono sì guai giudiziari ancora sulla famiglia Riva in attesa che si avvii il processo di Taranto per disastro ambientale. La Corte di Cassazione deciderà il 7 ottobre se questo processo si debba celebrare a Taranto o meno. Come dicevi tu, oggi i giudici della terza sezione del Tribunale di Milano hanno condannato Fabio Riva a 6 anni e mezzo per l'accusa di associazione a delinquere per truffa. Fabio Riva ha ottenuto una condanna superiore a quella che il pubblico ministero Civardi aveva chiesto. Infatti il PM aveva chiesto per Fabio Riva 5 anni e 4 mesi, invece la condanna dei magistrati e dei giudici è stata di 6 anni e mezzo. L'accusa appunto è di truffa ai danni dello Stato, praticamente attraverso una società creata ad hoc avrebbero aggirato le norme della legge Ossola, che prevedeva appunto contributi per quelle aziende che producono all'estero. In realtà la produzione veniva fatta figurare all'estero, ma in realtà era fatta in Italia, e in questo modo, secondo l'accusa, ricordiamo che si tratta ancora di una sentenza appunto di primo grado, in questo modo la famiglia Riva, il gruppo Riva, avrebbe percepito contributi dallo Stato per circa 100 milioni, li avrebbe percepiti indebitamente. Di qui appunto la sentenza di oggi. È scattata anche una multa per 1,5 milioni di euro nei confronti della società Riva Fire, che è la capogruppo, che è imputata appunto per la legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese, e poi per lo stesso Fabio Riva, per gli altri imputati coinvolti nella vicenda, Alfredo Lo Monaco e Agostino Alberti, dirigenti di società appunto collegate al gruppo Riva e coinvolte nell'operazione, è stata disposta anche una confisca di beni per 90 milioni e 800 mila euro. Tra beni mobili e immobili. Certo. E insomma, come dicevo un po' prima, scherzando, anche se poi la battuta chiaramente appare abbastanza di cattivo gusto, la famiglia Riva non si fa mancare nulla. Per quello che riguarda gli impianti appunto del Tarantino, Domenico, oggi il ministro Guidi ha detto che ci sono serissime manifestazioni di interesse. Che cosa ci aspettiamo da questo versante? Ormai da qualche mese è noto che gli impianti dell'Ilva di Taranto fanno gol al gruppo franco-indiano di ArcelorMittal, che a giugno ha mandato per 2 volte una sua delegazione di tecnici a Taranto, una prima volta 10 persone, una seconda volta 30 persone. Quindi il dossier Ilva è ormai viene monitorato con molta attenzione dal gruppo di ArcelorMittal, che però non è il solo, ce ne sono altri 5-6, ha detto il ministro, anche se lo stesso ministro Guidi ha precisato che con ArcelorMittal si è in una fase più avanzata. Certo, ma secondo te le vicende giudiziarie della famiglia potranno eventualmente compromettere la presentazione di altre proposte di interesse da altre società? Compromettere no, perché sono state già presentate, ma diciamo che sono comunque un punto interrogativo, perché ci sono le vicende giudiziarie che riguardano la famiglia, poi c'è tutto il nodo intricatissimo e complicatissimo dei risarcimenti ambientali, cioè chi compra l'Ilva sa che non compra un'azienda tranquilla, stabile, compra un'azienda dove in primo luogo vanno investiti un sacco di soldi per il risanamento degli impianti, soltanto i lavori di risanamento ambientale ambientale costano 1,8 miliardi e i lavori di risanamento ambientale sono previsti e vincolati da una legge, anzi da più leggi. Poi c'è da affrontare anche la parte del rilancio industriale dell'azienda e quindi ulteriori investimenti. Infine sta montando una marea di richieste di risarcimenti danni per le conseguenze dell'inquinamento sui quartieri di Taranto, sulla salute della popolazione, quindi chiunque si approccia all'Ilva sa benissimo che è una fabbrica da maneggiare con cura, con molta cura, perché ci sono risvolti molto preoccupanti e molto delicati. Lo sa bene anche il commissario straordinario Piero Gnudi, che oggi proprio da Bologna ha aggiornato la situazione sul prestito ponte di 650 milioni che vorrebbe dalle banche. Certo, sì. Diciamo che Gnudi inizialmente si pensava ad un decreto legge che prevedesse il prestito ponte da parte delle banche, poi la nomina di un commissario ambientale, infine una procedura per rendere più agevole l'utilizzo dei soldi che la magistratura di Milano ha sequestrato ai Riva mesi addietro, 1,8 miliardi per reati fiscali e valutari. Si pensava di utilizzare questi soldi per metterli appunto sul risanamento ambientale. In realtà il decreto che è uscito da Palazzo Chigi dei 3 punti contemplati alla fine ne prevede soltanto uno, il prestito ponte e con la garanzia della prededuzione a favore delle banche, cioè le banche sanno che se qualora presteranno soldi all'Ilva saranno garantite nel caso in cui l'azienda dovesse fallire. Gnudi ha chiesto 650 milioni, le banche sono orientate a darne la metà e oggi Gnudi ha detto stiamo trattando, però le banche ci vogliono dar di meno, dice se mi danno 650 milioni, ha affermato il commissario, sono contento, altrimenti è ovvio che dovranno ridimensionarsi gli obiettivi essendo meno soldi, arrivando meno soldi appunto da parte delle banche. Certo. È una partita aperta che Gnudi conta di concludere entro agosto, anche perché, e lo diceva anche oggi il ministro Guidi, la situazione finanziaria dell'azienda, la crisi di liquidità dell'azienda sono la vera urgenza in questo momento. Ci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Abbiamo commentato ampiamente i fatti del giorno. Nella prima parte del nostro programma abbiamo comunicato, abbiamo commentato i dati sugli ordinativi industriali di maggio, il fatturato, abbiamo commentato la seduta di borsa, la settimana parte molto male per i listini del vecchio continente, -1,48. Adesso ci occupiamo di un tema molto popolare che vi piace moltissimo. Parliamo delle multe, di multe stradali nei comuni italiani, dove si paga di più e dove di meno, provincia per provincia, da importi medi di 170 euro per patentato a richieste di nemmeno un euro. La mappa delle tante Italie nei verbali delle polizie locali è l'oggetto di un'indagine pubblicata oggi sulle Sole 24 Ore, ma non è questo il cuore dell'inchiesta. Il cuore dell'inchiesta è che gli introiti per i comuni da queste riscossioni sono a picco. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, gli automobilisti italiani sono diventati tutti così virtuosi che non prendono più multe o i problemi sono altri? No, i problemi sono altri, in particolar modo nei primi 6 mesi del 2014 la riscossione coattiva si chiama, cioè quella che si rivolge a chi non paga spontaneamente le multe, le tasse, quella eccetera. Quella simpatica raccomandata che arriva a casa. La riscossione cattiva, come dice qualcuno, si è sostanzialmente bloccata perché c'è stata in legge di stabilità una sanatoria delle vecchie cartelle e nel periodo coperto dalla possibilità di aderire alla sanatoria si sono naturalmente bloccate le procedure nei fatti di riscossione coattiva, quindi adesso il periodo è chiuso e quello che non è stato incassato, almeno una quota di quello che non è stato incassato nella prima metà dell'anno sarà incassato nella seconda. C'è da dire che in generale la riscossione delle multe è sempre abbastanza problematica per i comuni, il tasso di pagamento non è dei più elevati, ancora è presto per capire gli effetti reali di quella che alla spinta ai pagamenti di quello sconto del 30% destinato a chi paga nei primi 5 giorni. Quanto viene a mancare ai comuni da questa situazione? Cioè, qual è il bilancio, diciamo, di questo primo semestre considerato dalla vostra inchiesta? Esatto, tra le multe e poi la crisi delle altre entrate, perché in realtà è una crisi generalizzata, tra la crisi di entrata del fisco, perché il caos della TASI dell'IMU ha rimandato in larga parte i pagamenti, ma anche delle entrate dai servizi, eccetera, i comuni hanno incassato nei primi 6 mesi del 2014 19 miliardi in meno, che non sono pochissimi, rispetto allo stesso periodo del 2013. Attenzione, non è un buco, perché per esempio la questione TASI, IMU e così via, non dico che si risolverà, però insomma evolverà nella seconda metà dell'anno. Chi non ha pagato l'acconto a giugno lo deve pagare, perché i comuni non hanno deliberato, entro fine maggio, e così via, lo dovrà pagare entro dicembre. Però in altri casi sono segni probabilmente di una maggiore difficoltà a pagare da parte delle famiglie, per esempio nei proventi del trasporto scolastico, nei proventi delle mense scolastiche. Sono tutte voci che ciascuna delle quali vale qualche centinaio di milioni di euro, e naturalmente messe tutte insieme fanno un numero enorme, tant'è vero che i comuni hanno grosse difficoltà di cassa e chiedono che vengano erogati loro i fondi in anticipazione. Certo. Nel frattempo invece gli importi delle multe, quelli che citavamo all'inizio, sono quelli, diciamo, a consuntivo del 2013. Noi abbiamo preso un anno pieno e abbiamo diviso gli introiti per il numero di patentati del territorio e da lì vengono i pro capite. Quali sono le città dove ci sono le tendenze più rilevanti, nel bene o nel male? Beh, la tendenza più rilevante è sicuramente quella di Milano. Da un lato il primato di Milano è dato dal fatto anche che è una città naturalmente frequentata da molti non milanesi che tutti i giorni vengono, prendono qualche multa, soprattutto anche dall'intensificazione dei conti. Intendi la città pro capite, in cui la frenata degli introiti? No, Milano è anche l'unica città in cui la frenata degli introiti nel 2014 sostanzialmente non c'è stata. Ecco qua, anche perché i milanesi lo sanno, sono stati, tra le altre cose, messi 7 nuovi autovelox nelle grandi vie di accesso alla città, che hanno mietuto parecchie vittime nei primi, dal 10 marzo, insomma, da quando sono stati attivati a oggi, e questo un po' ha tamponato quella dinamica che invece è naturale, perché invece in altre città, per esempio i casi limite sono a Palermo, nei primi 6 mesi del 2014 ha riscosso quasi il 90% in meno rispetto ai primi 6 mesi del 2013, ma in tante città ci sono flessioni che oscillano tra il 40 e il 60%. Milano in questo confronto segna un meno 7, meno 8, insomma sostanzialmente siamo in linea. Cosa significa non riscuotere tutti questi soldi, Gianni, per significa questi comuni? A che cosa si paralizza qualche attività? I comuni rinunciano a fare dei lavori, delle opere, delle attività? Che cosa succede per i sindaci? Beh, significa non avere soldi in cassa e quindi allungare i pagamenti ai fornitori. Certo, per esempio. E intanto poi oggi al Ministero dell'Economia viene siglato il protocollo. Sì, esattamente. Ma e poi soprattutto significa avere dentro ai bilanci, perché i bilanci pubblici funzionano secondo un linguaggio loro proprio, una serie di entrate che sono accertate, cioè sono scritte a bilancio, ma non sono riscosse. La Corte dei Conti ha calcolato che queste entrate non riscosse e possono rimanere in bilancio per decenni. Qualunque città italiana ha in bilancio, si chiamano residui attivi, ma non è importante, cioè sono entrate scritte in bilancio e non riscosse. Qualunque città italiana c'ha dentro numeri che risalgono all'89, al 90, cose di questo tipo. Secondo la Corte dei Conti in totale sono 33 miliardi di euro scritti dentro i conti dei comuni ma mai entrati nelle casse dei medesimi. Tant'è vero, curiosamente, dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio prossimo una riforma della contabilità che crea, diciamo, bilanci più trasparenti e così via, per dirla semplice, e per entrare in vigore ha chiesto a tutti i comuni e anche alle regioni, in realtà è un discorso diffuso, dice: guardate tutte queste vecchie entrate che avete in bilancio, non avete riscosso, e se non riuscite a riscuoterle togliete dal bilancio. Questo però creerebbe dei default a catena, diciamo così, in quasi tutti i principali comuni italiani, nord, centro, sud, lì non c'è differenza, tanto è vero che si stanno studiando dei modi di accompagnamento, diciamo, per fare questa riforma, anche perché si tratta alla fine, come dire, di uno squilibrio dei conti pubblici che è nascosto nelle pieghe dei medesimi conti pubblici. Capiamo bene che 33 miliardi sono una manovrona, una di quelle veramente pesanti da tempi di crisi. Tra l'altro oggi lo avete fatto anche voi del Sole 24 Ore molto spesso, oggi Repubblica ritorna sulla questione del rischio default di almeno 180 comuni italiani, sì, rischio riconducibile appunto a tutto ciò che ci sta rischio raccontando. Riconducibile a tutto questo e a una patologia che si è aggravata nel corso degli ultimi anni man mano che le regole di finanza locale cambiavano, certo, vorticosamente. Allora, siccome negli ultimi 2-3 anni chi segue più o meno questi temi sa che le regole di finanza locale, vuol dire IMU, vuol dire TASI, vuol dire tutto quello, sono cambiate circa 3 volte al mese, il sistema è, diciamo, schiacciato da questo caos e naturalmente la macchina non funziona. In più, sempre per tornare alla riscossione, è in atto dal 2010 una sorta di disciplina temporanea della riscossione in attesa della riforma. Vi ricordate, Equitalia doveva uscire dalla riscossione locale ormai 3 anni fa. Naturalmente la disciplina transitoria non aiuta l'efficienza del meccanismo e quindi, diciamo, le difficoltà si moltiplicano giorno, certo, dopo giorno. Riprenderà la riscossione coatta delle multe non pagate per risollevare un po' queste condizioni di questi comuni? Sì, è ripresa la riscossione coattiva, è ripresa in queste settimane. Naturalmente ci sono casi, soprattutto al centro-sud, va detto, dove il problema di questa riscossione non è congiunturale ma è strutturale. Abbiamo capito con molta chiarezza. Gianni, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Questione multe, come era inevitabile aspettarsi, ha scatenato molti dei vostri commenti. C'è un ascoltatore che mi dice che stavo sghignazzando e ridendo di fronte a questioni fiscali così serie, ma ci mancherebbe pure, anzi, un'ascoltatrice, Marina, che io saluto, qualche volta abbiamo un po' anche dei ridolini nervosi di fronte a queste situazioni. Non ci fa affatto piacere sapere che ci sono dei comuni in totale dissesto, perché questo significa che i sindaci non riescono a far fronte anche alle più elementari esigenze di sopravvivenza delle amministrazioni, manutenzioni delle strade, i lampioni accesi che sono abbastanza importanti appunto durante la notte in certe località, asili, strutture pubbliche. Insomma, Marina, che le devo dire, mi sarà scappato, me ne dispiace. Chissà che cosa ne pensa di tutto questo, anche se non voglio interpellarlo sulle multe, anche se in realtà tutto ciò che attiene anche al mondo auto lo appassiona molto. Volevo salutare Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, Consumer con la K. Premuti, buonasera. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori, ai radiospettatori. Lo stesso. Allora, abbiamo interpellato Fabrizio Premuti non per sentire i suoi commenti sulle multe che non vengono... Ma una battuta la farei però. Volentieri, una battuta... sul tema della riscossione coatta. Sì, è tragico che i comuni siano in dissesto e pongano... È come dire, la soluzione del dissesto rispetto a un problema di incasso delle multe, laddove dovrebbero invece quantomeno auspicarsi anche tutti noi che di multe non se ne facessero più. Lo sa che ha... perché i cittadini le farei vedere un foglietto che mi sono scritta prima dell'intervista con Gianni Trovati, perché gli volevo chiedere proprio questo, poi abbiamo lasciato perdere. Era abbastanza originale che i comuni facciano bilancio, previsione di bilanci, prevedendo di incassare un tot dalle multe, quando giustamente dice sulle strade di questo problema ma neanche dovremmo sentir parlare. I vigili urbani dovrebbero, speriamo, occuparsi di tutt'altro invece che ad andare ad appiccicare sanzioni sui parabrezza. Ma ancora di più, le multe sono diventate un business dei comuni ed è assurdo questo, perché non insegna nulla, è una repressione inutile che scatena invece forse il senso contrario nel cittadino. E perché poi io dico, invece che colpire delle famiglie con delle sanzioni che a volte mettono veramente in crisi delle famiglie, perché non rivolgersi ai servizi sociali e far scontare eventualmente nei servizi sociali quello che è l'importo della multa? Ma guardi che oggi mettere una famiglia da fronte al pagamento dei 300, dei 400, a volte anche di più euro, significa metterli nei problemi veri, nei problemi veri della spesa che forse non si può fare. Si studiano soluzioni alternative e i comuni imparino a fare i loro bilanci considerando altre voci di entrate e soprattutto considerando con molta più attenzione le voci di uscita. Sai che ce n'è una che io ho preso il 18 marzo, sono andata a vedere, non mi ricordo assolutamente come diavolo l'ho presa, oltretutto, e chiudo la parentesi per ultimo, questo è un problema mio. Io l'ho interpellata perché invece voglio commentare con lei l'indagine che è stata diffusa oggi dall'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, che ha realizzato un'indagine sulle polizze occulte abbinate a prodotti non assicurativi. Dall'indagine sono emerse, diciamo, tutta una serie di criticità che riguardano la conoscibilità delle garanzie, le modalità di adesione, di scioglimento del contratto e alla chiara esplicitazione dei costi sui quali l'IVAS poi sta predisponendo delle linee di intervento. Nella sostanza, in soldoni, 15 milioni di italiani avrebbero comprato determinati servizi non sapendo che accanto a questi servizi sono legati anche prodotti assicurativi. Ha visto questa indagine, Premuti, che ne pensa? Assolutamente sì, anzi devo dire che IVAS ce ne ha dato un'anticipazione il 9 luglio in occasione di una riunione con le associazioni consumatori. Devo dire che ha scatenato un putiferio, perché secondo me ha messo il dito nella classica piaga. È andata ad indagare su qualcosa di cui il consumatore non è consapevole da una parte, quindi non può eventualmente ricorrere alla garanzia nel momento in cui quella garanzia potrebbe operare. Esatto. Quindi facilitare, ma soprattutto è andata a indagare su qualcosa che, pur non potendone usufruire il consumatore paga e lo paga a volte anche molto caro, perché abbiamo visto che soltanto nel 6% dei casi, questa è l'indagine IVAS, soltanto nel 6% dei casi al cittadino viene fornita una copertura presunta gratuita, ma questo significa che nel 94% dei casi il cittadino paga per quella garanzia, e quindi quantomeno, se paga, dovrebbe essere consapevole di che cosa ha garantito, cosa che invece avviene assolutamente molto di rado. Allora, siccome il nostro lavoro è proprio anche quello di rendere consapevoli, facciamo degli esempi per muti, perché almeno magari, che ne so, stasera invitiamo qualcuno ad andarsi a ripescare vecchi contratti magari sottoscritti da un po' e a verificare se c'è accanto una postilla che indica anche la copertura assicurativa contestuale, no? Per esempio, si va in banca, ce ne sono molte di assicurazioni legate ai contratti di conto corrente. Assolutamente, il contratto di conto corrente è il primo contratto che viene spesso gravato da una polizza assicurativa, di solito una polizza collettiva a pacchetto in cui vengono fornite delle garanzie anche protection, cioè rispetto alla persona, le infortuni, il caso di morte, la polizza malattia, ma il consumatore questo non lo sa perché ha acceso un conto corrente, cioè l'oggetto del suo interesse nei confronti della banca e dello sportello bancario in quel momento era l'accensione del conto corrente, che tra i tanti moduli poi gli abbiamo fatto anche firmare questo, che era la copertura assicurativa, e guarda caso questo rientra tra quei contratti genericamente che costano all'incirca sui 30 euro, lui non ne sa nulla. Esatto. E non potrà mai e non ne potrà mai usufruire, anche nei casi in cui quella polizza l'avrebbe garantito. Trovo anche che su questi 15 milioni appunto di malcapitati, chiamiamoli così, comunque di questi consumatori non consapevoli, ce ne sono addirittura 1.800.000 che sottoscrivono delle assicurazioni magari facendo un abbonamento ad un'associazione sportiva, e anche lì non lo sanno. Esatto, e qui abbiamo la possibilità di dire qualcosa in più, che molto spesso questi contratti, al di là delle associazioni sportive che sono una delle casistiche più frequenti in questo caso, molto spesso questi contratti vengono accesi per garantire se stessi e non il consumatore. Faccio il caso delle associazioni sportive, ma potrei parlare dei concessionari d'auto sull'autostrada, potrei parlare della telefonia mobile, potrei parlare di tante altre cose. Io do un pacchetto d'assicurazione al consumatore, il quale lo paga, anche se non lo sa, ma lo paga, e nello stesso tempo sto garantendo la mia responsabilità civile nei confronti del frequentatore della palestra. Ma se è la mia associazione sportiva, perché deve pagarla il consumatore? Il quale potrei capire pagasse una polizza infortuni cumulativa, e anche questa è prevista in quei pacchetti, ma il consumatore continua a dire non lo sa. Però quello che è assurdo è che il consumatore vada a pagare delle garanzie che ricadono sul produttore o sul fornitore del servizio. Certo, tipicamente per esempio, per la fornitura di energia. Esatto, per la fornitura di energia, gas e acqua, altro settore popolato dalla, come dire, incertezza incredibile, no? Perché è un settore molto, sì, molto poco trasparente, e aggiungiamoci anche questo problema. Beh, tra l'altro è uno dei settori dove io sfido chiunque a leggere una bolletta a capirsi qualcosa, per non dire di leggere un contatore, va bene, ma sorvoliamo su questo. In questo caso garantiscono la dispersione per esempio dell'acqua, garantiscono il consumo oltre i limiti stabiliti, ma garantiscono tutte cose di quali sono loro poi in prima persona che dovrebbero essere parte diligente dell'intervento nei confronti del consumatore. Io non capisco perché il consumatore debba sottoscrivere questi contratti non sapendolo, ripeto, non sapendolo, quindi non potendolo usufruire, e li sottoscrive e li paga per dare un vantaggio all'azienda fornitrice. Ma qui siamo veramente all'assurdo, veramente all'assurdo. Ma voi pensate al caso delle polizze sull'auto usata? Io acquisto un'auto usata, c'è un codice del consumo che è chiarissimo, la garanzia va prestata a cura del venditore. E il venditore che cosa fa? Mi dà a me, facendomela pagare, una polizza per la garanzia, cioè nel caso in cui la macchina si guasti io dovrò litigare con un assicuratore che non è neanche un assicuratore, che fornisce una polizza sulla garanzia sul guasto dell'auto. Ma di che cosa stiamo parlando? È un ulteriore incremento di imbrogli che vengono fatti sulla testa dei consumatori e sui quali l'IVAS ha fatto benissimo a metterci il dito. Certo. E ha fatto, devo dire, 30 pagine di report precise e puntuali, certo, su cui io credo ci sia ancora molto da lavorare. Esattamente, tra l'altro questa indagine è stata trasmessa adesso anche all'autorità garante della privacy, all'autorità garante del mercato, mi sono sbagliata, e quindi insomma tutte le autority adesso speriamo vigileranno in maniera molto attenta su tutto questo. Premuti, devo salutarla, ma la ringrazio per la grande vivacità che come sempre la contraddistingue, buona serata. Io ringrazio voi, a presto. Tra l'altro un ascoltatore scrive: lo sapete che è più semplice accedere ad un finanziamento per consumo, ad un credito al consumo, se si stimola la polizza prima? Non abbiamo nessun dubbio. Grazie a Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi stasera in assistenza tecnica, io ci sono anche domani. Ale, buona serata. Radio 24, la passione si sente.